sei, sempei, pescatore, grandi orecchie sfantola, sorriso di sole sempei. Che sarà? Pesce, cane, spada, che sarà? È questione di momenti, abboccherà. Amica tua, una canna fatta di magia, e quell'amore una calamita, impossibile cambiare strada.